un caldo saluto da parte di Max Macchia, caldo veramente a tutti gli effetti, e sperando insomma di sopravvivere. Tra l'altro, insomma, avevo già salutato la scorsa trasmissione, beh, come dire, le promesse del marinaio, però in questo senso buone, no? Perché poi alla fine sono qua, un doppio saluto, un extra, anche perché così l'altra volta con un po' di a malincuore, come dire, già avevo salutato, ma poi ho pensato anche al fatto che non avessi dedicato nulla a uno dei più grandi musicisti di sempre, probabilmente soprattutto nell'ambito dell'elettronica, uno dei grandi innovatori. Klaus Schulze è morto pochi giorni fa, quindi mi sono detto, beh, a questo punto perché non dedicare appunto un'ora al grande appunto inventore, potremmo dire proprio così, tedesco, Klaus. E quindi 451 Klaus, ovviamente è un riferimento a Schulze, e per iniziare insomma un viaggio che l'ha visto veramente fra i maggiori inventori, come dicevo prima, di musica elettronica, di battiti anche elettronici. Ricordiamoci come inizialmente, partendo insomma da una sorta di improvvisazione tutta teutonica, con tanto di riferimento a certe psichedelie che però si mischiavano con un jazz molto molto particolare, che proprio negli anni 60, alla fine degli anni 60, con la diaspora dei free jazzisti, arrivava in Germania, anche in Olanda, nei paesi della Nord Europa, e con poi anche deviazioni e nascite di scuole anche eccezionalmente brave, e anche insomma anche in questo senso innovative. Se pensiamo a certi inglesi, Derek Bailey, AMM, quindi anche lì improvvisazione tra elettronica, elettroacustica e forme così parajazzistiche, ma nel senso veramente molto molto largo del termine, musiche creative in generale. Schulze sicuramente prende le mosse da quel primo periodo. Abbiamo dedicato tra l'altro proprio a 451 frammenti sonori una trasmissione dedicata appunto a quel tipo di improvvisazione, che troverete insomma nel blog, se non l'avete già ascoltata. Improvvisazione proprio riferito appunto ai tedeschi e alle prime forme di kraut rock, di musica cosmica meglio definita, visto che kraut insomma poi alla fine c'è stato anche il pezzo dei Faust, ma aveva, come dire, anche quel po' di sfottò verso appunto i tedeschi, che si stavano inventando veramente di sana pianta la nuovissima musica, tra improvvisazioni e jazz molto molto libero, musiche così, etnicità probabilmente così, che passavano anticipando molto delle musiche del mondo poi che da lì a 10 anni si svilupperà poi nella world music o nelle musiche appunto che ad esempio sentiamo tanto con Salvatore Titolo, che ringrazio tra l'altro, e poi appunto un'elettronica e il battito. Se Schulze con i primi lavori sicuramente ha dato il via a quello che possiamo considerare proprio un suono, la suono della cosmice, quella più riflessiva, più astratta, poi da Black Dance in poi inizia a inserire il beat, fino a creare poi alla fine degli anni 70 un vero e proprio suono che diventa tecnoide. Non è un caso che negli anni 90 The Dark Side of the Moog lavorerà con Pete Namluk, legato all'ambiente dell'ambient house, poi con Manuel Gottesching creerà E2 e 4, che non ascolteremo questa sera, ma passa tra le maglie di 451 da un po' di anni. Quando non c'è a livello musicale, tante volte c'è nella testa e circola magari in pezzi, magari anche che ascolteremo in questa oretta, come appunto anche incipit, o come comunque influsso poi dato appunto a quella sessione che di Gottesching in primissimo luogo, ovviamente, ma che vedeva appunto anche la presenza di Schulze, e soprattutto incentivò e diede coraggio appunto a Göttingen di produrre quel capolavoro che poi ha dato adito a tutte le varie techno house eccetera eccetera, soprattutto a quel suono non ben definito, che quel suono balearico, che forse anche per questo ha il suo fascino, non una definizione appunto molto così fluida, ecco, potremmo dire, appunto più legato alle Baleari, quindi di fatto insomma ha un suono che si fa anche proprio acqueo nel senso vero della parola, nel senso appunto di fluido legato le varie, potremmo dire, onde sonore, anche in questo senso, che cullano, ma non solo, a volte uscendo appunto dalla grande parentesi di 2-4, in altri lavori Schulze ritma proprio quasi a creare appunto quello che sarà il battito tecno, sempre però con una struttura incredibilmente forte, potente, derivata anche da il così dallo studio non soltanto di Stockhausen, tra l'altro così un po' come dire un po' ossessionato, ecco, i giornalisti soprattutto erano ossessionati da tanto da chiedere in ogni intervista insomma il suo rapporto con Stockhausen, poi alla ennesima volta che la domanda gli veniva posta, insomma, e il buon Klaus Schulze diceva: basta, non ne posso più di Karlheinz Stockhausen, ho studiato la teoria, faccio tutt'altra cosa, tra l'altro. E voi che me lo chiedete, magari non avete mai ascoltato Karlheinz Stockhausen, anche perché insomma di musica elettronica ne ha fatte, ma ha fatto tanta altra roba, quindi non capisco perché sempre rapportarmi a quello, ma d'altronde fino a Aphex Twin insomma si aveva questo vizio insomma di chiedere di Karlheinz Stockhausen appena si trattava di elettronica, un po' a ragione, ma soprattutto insomma così per riempire probabilmente dei vuoti, ecco, legati a una non capacità insomma di capire musiche che si sono mosse poi staccandosi ovviamente anche dai padri fondatori e creando appunto quelle che poi sono le musiche che attraversano i nostri giorni. Schulze con anche nastri recuperati, con una sistemazione anche dell'opera che tra l'altro non è stata ancora compiuta del tutto, era ancora piuttosto in forma. Andiamo appunto ad ascoltarlo proprio collegandoci con quello che dicevo prima rispetto al primo periodo improvvisativo di queste formazioni che nascevano appunto intercettando varie sonorità, una psichedelia molto molto molto aperta, veramente di nuova invenzione. Pensate che sono i figli per tanti versi disgraziati appunto della Germania uscita dalla dopoguerra, quindi si dovevano veramente inventare un nuovo mondo, non potevano assolutamente rimanere schiacciati rispetto ai disastri combinati appunto dai padri. E uno dei storici gruppi che senz'altro ha dato un'impronta forte Schulze sono sicuramente i primissimi Tangerine Dream, quelli di Electronic Meditation. Andiamo a ascoltare con una genesi sonora dove appunto attraversamenti vari tra elettroniche e così impro di natura molto molto free si uniscono atmosfere così piuttosto cupe, anche in questo senso è stato creato poi un immaginario molto forte che poi è filtrato attraverso poi musiche che si sono fatte sempre più scure negli anni, fino a solcare insomma l'industrial, certo isolazionismo eccetera eccetera, veramente un eccetera che non è un bla bla bla bla come si usa dire, ma che è un eccetera che dà ancora appunto un'eccedenza nel vero senso della parola, che quindi darà ancora. Tangerine Dream, appunto Genesis, da loro primissimo Electronic Meditation, appunto. We'll be right back. E dai Tangerine di Electronic Meditation, album storico che apriva una carriera che tuttora dura, tra l'altro, i Tangerine Dream, visto che hanno anche musicato il nuovo film, tra l'altro molto bello, molto cosmico, seppur uno potrebbe dire no, film napoletano, no, un film cosmico per tanti aspetti, anche lì appunto i cosmici storici Tangerine Dream, anche se poi della storica formazione non è rimasto più nessuno, però Edgar Froese, prima di morire appunto, ha lasciato, come dire, in eredità appunto la macchina Tangerine Dream, e quindi di conseguenza nessun furto, insomma, di qualsiasi tipo. È la macchina Tangerine Dream che vive senza appunto gli stessi originatori, addirittura appunto un Schulz che se n'è andato qualche giorno fa e che prendeva le mosse appunto da questo Electronic Meditation proprio di Tangerine Dream. Tra l'altro c'era anche Schickert, che altro cosmico tedesco di quelli così che veramente girava la testa e girava anche veramente in maniera vorticosa, sia lui ma gli altri anche appunto Tangerine Dream, per poi creare quella che è un'epica, poi se vogliamo, di un suono che è tuttora non si può fare a meno per chi ascolta elettronica, per chi la fa, insomma, di andare a confrontarsi con i tedeschi e soprattutto con un'autorialità come quella di Schulz. Prima accennavo al fatto che Schulz avesse anche una struttura piuttosto forte in termini compositivi, tant'è che appunto i riferimenti a Wagner ci sono e come, con opere sempre decisamente originali, ma con un senso poi, tra l'altro, con se pensiamo al disco X, dove c'è buona parte insomma dei poeti romantici tirati fuori appunto da Schulz, dedicato pezzo per pezzo appunto a vari artisti appunto della Germania, e poi quella capacità di spostare sempre, tant'è che con Cosmic Joker, proprio un viaggio di quelli veramente da trip infinito, con ottimi compagni di viaggio. Prima citavo Gottsching per i 2 e 4, ma in realtà i due erano molto amici, collaboratori, sia con Ashra Temple che poi appunto in Cosmic Joker, questa comune fricchettona persa in uno spazio siderale incredibile e indefinibile, dischi che possono essere ascoltati soltanto da chi capta onde strane, senza o con aiuti vari che possono essere esterni, ma perché no, si può partire anche dall'interno per veramente andare a trovare così deragliamenti cosmici veramente straordinariamente lancinanti. E i Cosmic Joker poi sono passati, insomma, a parte di Tangerine Dream, anche tanti che veramente bisognerebbe avere, come dire, quasi un'intera trasmissione per citarli tutti, tant'è che comunque questa sera appunto ci interessa, quando state ascoltando questo 451 dedicato appunto a Klaus Schulz, quello che ci interessa appunto e le varie facce, se vogliamo, di Schulz, per questi pochi minuti in cui appunto possiamo ascoltarlo. E da appunto l'improvvisatore, il creatore di post psichedelico, delle musiche improvvisative fringe a tutti gli effetti del primo album di Tangerine Dream, Electronic Meditation, al viaggio infinito di super freak di Cosmic Joker, fino alla creazione proprio del suono cosmice nei primi due dischi, e a quel battito che appunto sarà importante per buona parte della techno, e poi anche deragliamenti che a alla fine degli anni 70, per uno appunto che veniva sempre, come dicevo prima, così paragonato anche in maniera insomma impropria a Karlheinz Stockhausen, ovviamente come figlioccio, spostarsi addirittura a una colonna sonora che nella maggior parte dei casi non erano firmate apocrife, e quelle legate al mondo della pellicola, della cinematografia porno, per tra l'altro Lasse Brown, il nostro ferro regista italianissimo, emigrato appunto in Germania per così svolgere, e in Nord Europa in generale, per così svolgere quello strano lavoro che stava facendo dentro questa sorta di anarchismo pornografico che c'era nella sua filmografia. E Body Love appartiene a quelli, tra l'altro appunto Schulze non si tira indietro, anzi c'è un lavoro veramente eccezionale. E da Body Love, l'edizione che poi così ha ripreso anche un pezzo strepitoso, tra l'altro tratto dalla colonna sonora ascoltata in parte, qua addirittura un così Klaus Schulze che immagina strani mondi appunto di così un Eros che appunto va verso lo scene, quindi diventa pornografico, ma una pornografia appunto strutturata come poteva forse immaginarlo appunto un Wagner sotto trip perso appunto magari in una navicella come quella di Dark Star. Thank you. Dispiace, insomma, come dire, sfumare un pezzo straordinario. E se pensiamo appunto che è un pezzo inedito dedicato direttamente, si chiama Lasse Brown, proprio Alberto Ferro, al regista appunto di Body Love, film cult, insomma, e proprio con musica, insomma, immaginate appunto musiche che veramente trascendono veramente il corpo, vanno oltre, e quindi anche in questo senso, insomma, un disegno, come dire, è veramente anarchico, quello sia di Schulze che quello di Alberto Ferro, anche lui, insomma, immagino sia stato particolarmente contento, ma batter cassa, insomma, con cose di questo tipo, anche nel così, nell'anno, insomma, del sdoganamento anche delle pornografie e anche di musiche che, come dire, si stavano incrociando in maniera strana con non proprio la disco, ma con forme, insomma, di quel tipo legate comunque alla danza, al battito. Beh, ancora comunque è di là a venire, e probabilmente per molti aspetti non l'abbiamo ancora superata. Certe forme, insomma, per quanto, insomma, poi prima, come accennavo, il fluido, appunto, qua come se ce n'è di fluido, materiale fluido, magmatico, però piuttosto così caldo, tant'è che, insomma, viene veramente da pensare sì a forme probabilmente appunto extracorporee, ma proprio per forse un'accensione fin troppo forte, appunto quel viaggio, insomma, quella trip appunto che avevamo già sentito prima con Cosmic Joker, qua diventa appunto anche una sorta di viaggio appunto tra mente e corpo, superando probabilmente tutte e due le stesse musiche che hanno sì quel, tra l'altro, veramente quell'utopico wagneriano che prende tutto Schulze, però utilizzandola in chiave anche, insomma, potremmo dire punk, che esattamente, insomma, legato a Schulze non suona così, insomma, a fine. Poi in realtà, se pensiamo a Dien Test Build, gruppo storico della Neue Deutsche Welle, vicino ai dilettanti geniali che aveva visto passare anche a Sturzen Neubauten, Alexander Aake con Forborsing, varie formazioni, insomma, la Gudrun Gunn, che faceva parte tra l'altro della primissima formazione dei Dean a Test Build, poi formerà la storica formazione di Malaria, anche qua veramente rumorismi vari, wave assurdiste che appunto solcavano la terra germanica, con tanto d'attraversamento anche appunto di qualche insospettabile come Schulze, che produsse appunto gli album di Test Build, oltre che suonarci dentro. E appunto per lasciare così, ma si fa per dire lasciare, personaggio che di cui sentirete parlare ancora per molto tempo, Schulze, sentiremo ancora le sue musiche, ma soprattutto sentiremo i suoi influssi, e magari chissà, tra le tante musiche magari potremmo fare anche una trasmissione legata proprio non direttamente a lui come oggi, come per quest'ora, ma magari alle musiche appunto che prendono riflesso, the reflex appunto dal suono di Reflect di appunto Klaus Schulze. Ten Dina Test Build, poi Schulze con un altro pazzoide scatenato, uscito dalla Swing in London come Arthur Brown The Crazy World, e poi con vari attraversamenti anche qua con forme di disco, veramente assolutamente immaginifiche, come soltanto appunto Schulz in buona compagnia, in questo caso con Arthur Brown, e poi appunto deragliamenti, strani deragliamenti con Dina Testbild tra sonorità appunto Neue Deutsche Welle, ma anche riflessi appunto che si possono trovare in E2 e 4 dall'album appunto citato di Gottesching, che ha dato via per buona parte insomma a molta house music, soprattutto a quel particolare così sentore umore che potremmo chiamare balearico. Vi lascio, non vi dico più buona estate, ve l'ho detto la scorsa trasmissione, e poi dipende insomma in che ordine state ascoltando, magari sul blog se siete in diretta, comunque vabbè, ve lo dico ancora ovviamente, e buona estate appunto da Max Macchia, e alla prossima, prossimo anno accademico, chissà, vedremo un po', facendo o non facendo i bravi, eh? Intanto uno veramente bravo, di più che bravo, eccezionale come Klaus Schulze, e vi lascio appunto nelle sue mani per ancora qualche minuto. Ciao.